America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. It's time, Robbie. It's time. They knew and they let it happen. Two kids. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Spotlight, premio Oscar film denuncia che ha ricostruito l'inchiesta sviluppata, portata avanti dal Boston Globe, che ha poi portato alla luce uno scandalo di vaste proporzioni, cioè il fatto che molti preti della Chiesa Cattolica fossero coinvolti in casi di pedofilia e come la Chiesa Cattolica in quegli anni abbia cercato di fare un cover up, di evitare che la cosa diventasse uno scandalo. Ecco, nel nostro tempo, nel tempo di internet e della comunicazione in tempo reale, ovviamente la trasparenza è la cosa più importante, ed è sulla trasparenza, devo dire, che ha puntato la Chiesa, lo abbiamo visto nella puntata di ieri, e su questo che ha voluto puntare Papa Francesco. Il fatto è, ed è questa una delle cose secondo me molto interessanti, che se fa titolo il fatto che ci sia un prelato che abbia commesso un peccato di pedofilia, il problema è molto più vasto, perché su internet c'è un traffico di immagini pornografiche, di tentativo di rapimento, di attrazione di minorenni per poi sfruttarli sessualmente, che è spaventoso. Non abbiamo dei dati complessivi, ma abbiamo alcune idee. Per esempio, nel deep web, nella rete più profonda, nella dark web, pensate che ci sono dei siti che servono esclusivamente per adescare dei ragazzini, dei bambini, e c'è l'82% di coloro che si collegano col dark web vanno su questi siti. E quali sono i dati di questo dramma? Un ragazzo su 6 e una ragazza su 4 prima dei 18 anni avranno l'esperienza nella loro vita di una qualche forma di abuso sessuale. Dunque il problema è molto grave, molto serio. Vi anticipavo ieri che ci sarà la settimana prossima a Roma una conferenza organizzata all'Università Gregoriana, ma dal Vaticano, perché poi parteciperà anche il Papa, ci sarà un'introduzione del Cardinale, del Segretario di Stato Parolin, la conferenza è dedicata alla dignità del bambino nel mondo digitale. Ecco con me Ernesto Caffo e padre Zöllner, con cui ho parlato ieri, che sono fra gli organizzatori di questa conferenza. Ecco Ernesto Caffo, è vero quello che ho detto? C'è una svolta importante, una svolta storica in questa conferenza, al di là del tema? Questa conferenza rappresenta una grande sfida per la Chiesa, ma anche per il mondo scientifico. Da una parte perché si affrontano i temi sempre più complessi dei bambini nel mondo digitale, ma anche quello che vuol dire coinvolgere grandi aziende, le istituzioni, per affrontare questo tema in modo globale. Ecco, lei ha parlato di aziende, in effetti questo è un tema chiave, perché a un certo punto le aziende, sia quelle che operano nel settore dei social media, come Facebook, come Google, che diventano poi veicoli per la trasmissione di queste immagini, che le aziende o le banche o gli investitori che hanno titoli e azioni di queste società, in qualche modo diventano responsabili. Ecco, l'elemento di responsabilità è fondamentale per tutti, ma anche per coloro che sostengono questi strumenti che possono nascere bene, ma poi in qualche caso finire male, è vero? Non c'è dubbio che le grandi aziende sono coinvolte, anche perché il traffico di queste immagini e d'altra parte i contatti tra i bambini e adulti avviene su queste piattaforme. Credo che occorre sicuramente fare investimenti da parte di queste aziende, e la società sociale sta crescendo da parte loro, anche devo dire sollecitata dai paesi che sono coinvolti. Interpol in particolare sta svolgendo un grande ruolo, anche di moral suasion nei confronti di queste aziende, ma anche l'autorità di garanzia, soprattutto quelle sui dati personali, stanno facendo un grande lavoro in questo settore. Ecco, abbiamo sempre con noi anche padre Zöllner. Buongiorno padre Zöllner, mi sente? Buongiorno a lei. Eccoci, allora padre Zöllner, intanto ve l'avevo presentato brevemente ieri, ma padre Zöllner è il preside dell'Istituto di Psicologia della Gregoriana a Roma ed è anche il presidente del comitato organizzatore di questo convegno che si inaugurerà martedì prossimo a Roma e poi proseguirà per 3 giorni e sarà chiuso dal Papa Francesco. Ecco padre Zöllner, dicevo che molto spesso i titoli dei giornali così sono sollecitati dal fatto che ci sia una notizia, che magari un prelato è coinvolto in qualche cosa, ma qui abbiamo un problema molto più grande che riguarda la nostra società a livello globale. Sì, non abbiamo ancora alcuna idea della quantità e della gravità del problema in tutto il mondo, e sta crescendo in maniera veramente spaventosa, perché ad esempio in molte parti del mondo arriva adesso, in questi 1, 2, 3 anni, arriva l'internet, e quindi ci sono generazioni di giovani che sono esposti a questo strumento che può essere meraviglioso ma può essere anche molto pericoloso, e i cui genitori non hanno la più pallida idea di che cosa si tratti. Devo dire che in tutti i colloqui che ho avuto con governi, con la polizia e altri responsabili anche delle aziende, non ho mai incontrato, diciamo, una risposta come possiamo affrontare questo problema. Ecco, da un punto di vista pratico, lei che consiglio può dare ai genitori per proteggere i loro figli dal rischio di essere in qualche modo contattati o sfruttati? Bene, l'unico consiglio vero che posso e voglio dare è di parlare apertamente con i ragazzi, secondo la loro età, dei pericoli dell'accesso all'internet, e qui tutte le misure di cui sappiamo, cioè questi programmi di protezione di accesso eccetera, tutti i genitori mi dicono che non aiutano più di tanto, perché i ragazzi, ma anche i bambini addirittura, sono più intelligenti nell'uso del laptop o del tablet o del smartphone, cioè i genitori si sentono persi. Io non ho incontrato alcun genitore che non abbia parlato di questo problema. Ecco, padre Joel, come è nata l'idea di questa conferenza? Perché mi sembra una cosa molto importante, e lei condivide quello che diceva il professor Caffo, cioè che bisogna anche responsabilizzare le aziende, oltre che le famiglie, i genitori, le istituzioni. Assolutamente sì. Lì il problema grande è che le aziende sfuggono a legislazione nazionale, perché sono aziende supranazionali, cioè agiscono in diverse parti del mondo, e così una nazione, ma neanche un continente, potrebbe controllarle se queste stesse aziende non facciano loro parte della responsabilità. E questo sarà uno dei problemi, una delle domande che affronteremo. Bene, l'idea della conferenza è nata nel dialogo con il professor Caffo, con un'iniziativa del governo britannico che si chiama WeProtect, che lavora con i governi a questo livello, e volevamo dall'inizio far sì che ci sia un dialogo tra tutte le parti coinvolte, cioè tra la scienza, i media, le aziende, la polizia, i governi, affinché possiamo avere una possibilità di parlare insieme e di sviluppare strategie per un futuro più sicuro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su mario24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ernesto Caffo con noi in linea, questa volta tocca a lei scegliere la canzone. Ieri l'ha scelta padre Zöllner. Cosa proponiamo ai nostri ascoltatori? Io sceglierei Teach Your Children, che è una canzone che dà il senso della speranza, soprattutto di quella degli adulti che devono in qualche modo essere accanto ai bambini ed ascoltarli. Teach Your Children di Crosby, Stills e Nash, ottima scelta. You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!